Tempo di sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, ha appena segnato il Cile nella partita contro l'Honduras, quindi il Cile avanti 1-0. È il 24esimo gol di questo mondiale, quando siamo praticamente alla fine della prima giornata complessiva, manca soltanto la conclusione di questa partita e poi Spagna-Svizzera in programma alle 16. 24 gol, quando nel 2006, in questa prima fase, nella prima giornata, nella prima fase, erano stati 39, quindi c'è un grande deficit di gol rispetto ad allora. Per fortuna almeno è arrivato un capolavoro, quello di Maicon ieri sera contro la Corea. Tra l'altro mi ha segnalato un ascoltatore, anzi un lettore del Sole 24 Ore, che Maicon aveva segnato un gol molto simile il 19 novembre 2008 contro il Portogallo, il gol del 3-1 in una partita finita, un amichevole finita 6-2. L'ho rivisto, il coefficiente di difficoltà di ieri sera, a parità di azione simile, il coefficiente di difficoltà di ieri sera era molto molto più alto, e credo che non ci siano dubbi che fino ad ora il gol di Maicon è nettamente il più bello del mondiale. Bentornato Fabio Tavelli, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Gigi. Ti segnalo anche la bellezza del passaggio di Robinho ad Elano ieri sera. Certo. Trovo che sia stato un gesto tecnico apprezzabile, e anche l'assist per il cross che poi ha portato al gol oggi del Cile, mi è sembrata una bella verticalizzazione, di quelle che non se ne vedono più tante. No, difatti. Se ne vedono abbastanza poco. Senti, la FIFA ha appena emesso un comunicato in cui si dice non c'è nessuna riunione riguardo al pallone. Allora, certo, è una non notizia, no? Da questo punto di vista, quindi non avrebbe senso. Però è vero che questa dichiarazione è uscita perché? Ma perché si moltiplicano le critiche sulla governabilità di questo famigerato Jabulani. L'ultimo è stato Eriksson a lamentarsene ieri, e mi pare sia un tema questo che ci accompagnerà ancora per un po', per non dire fino alla fine del mondiale. Sì, un po' come le vuvuzela, credo che ce le porteremo dietro fino alla fine, però saranno discorsi entrambi inutili, nel senso che la FIFA non solo ha detto che non c'è una riunione in vista, ma ha fatto capire chiaramente che si è cominciato con Jabulani e si finirà con Jabulani. Non è pensabile che la FIFA voglia cambiare il pallone nel corso della manifestazione. No, certo. Credo anche che finché ne parlano gli allenatori l'impatto sia minore, cioè io mi aspetto che magari un calciatore importante possa fare una dichiarazione forte su Jabulani. Finché ne parla Eriksson poi ha detto un'altra cosa, ha detto ne dovremo parlare alla fine. Sì, certo. Alla fine sarà anche inutile parlarne, nel senso che non è in questo caso i conti si fanno alla fine, perché Eriksson può anche parlarne dal 12 di luglio, ma ormai tutto sarà agli atti e quindi il mondiale sarà andato come sarà andato, quindi sai, sono discorsi che contano tanto e poco. O i calciatori decidono di prendere una posizione forte e netta, e i calciatori un discreto potere contrattuale ce l'hanno, oppure parliamo di niente, perché la FIFA non cambierà mai il pallone. Capolavoro, scrive un ascoltatore, se Maicon avesse voluto tirare in porta io non sarei così sicuro come lei. Caro ascoltatore anonimo, tra l'altro, io le lascio la sua opinione, però Maicon ieri sera ha voluto fare esattamente quello e ha segnato uno dei più bei gol della storia dei mondiali, secondo me, o perlomeno di quelli recenti che ho presente io, perché si vede benissimo, si capiva a velocità normale che voleva fare quello, e poi rivedendolo lo si capisce molto a maggior ragione. Non sono nemmeno d'accordo sulla gaffe del portiere, perché il portiere giustamente, secondo me, anticipa un movimento verso l'interno del campo cercando l'uscita, perché non può mai immaginare, cioè già fa fatica a pensare che Maicon quel pallone lo raggiunga per crossarlo, che poi possa raggiungerlo per calciare di mezzo esterno in quella maniera, è semplicemente incredibile, e non è certamente un portiere della Corea del Nord, con tutto il rispetto, che può anticipare le intenzioni di un campione come quello. Mi pare oggi, Fabio, sia una giornata speciale per il Sudafrica. È una giornata speciale, come tutte le giornate speciali, purtroppo legate a un ricordo brutto, perché il 16 di giugno del 1976, proprio qui vicino a noi, nella zona di Soweto, ci fu una violentissima risposta da parte della polizia sudafricana a una manifestazione studentesca di ragazzi di colore che protestavano contro una riforma legata all'istruzione che introduceva alcuni criteri non ritenuti congrui e ritenuti discriminatori e soprattutto imponeva anche alla popolazione di colore il linguaggio non soltanto il linguaggio delle parole, ma anche il linguaggio dell'apprendimento scolastico legato al potere bianco. Fu una protesta sedata nel sangue, morirono tantissimi ragazzi, tutti i giornali del Sudafrica questa mattina riportano le foto dell'epoca, molte di queste in bianco e nero, ce n'è una con un padre che tiene in braccio un bambino, un ragazzino di 13 anni morto sotto i colpi della polizia che ci ha veramente commossi questa mattina quando l'abbiamo acquistato, ed è diventato il giorno della gioventù, viene ricordato come il giorno della gioventù, anche se la popolazione di colore lo ricorda come il Soweto Day, cioè vuole dare una caratterizzazione più forte di un nome che invece il governo ha proposto, imposto, e che è abbastanza neutro, perché giornata della gioventù vuol dire tanto, ma vuol dire anche poco. Certo. E quindi qui i ragazzi di colore lo ricordano come il Soweto Day. Chissà che... Non a caso, scusami Gigi, credo che sia stata piazzata nel calendario di oggi la partita del Sudafrica. Era lì che volevo arrivare, nel senso che... Non lo so, teoricamente no, ma praticamente forse sì, non ne ho idea, perché spesso quando ci sono delle grandi ricorrenze, soprattutto in paesi che hanno molto a cuore le loro tradizioni, ti parlo della Francia o ti parlo degli Stati Uniti o quant'altri, cercano di mettere la partita della squadra locale, della squadra nazionale, in una giornata fortemente caratterizzata. Credo di sì, è anche vero che poi i criteri vengono scelti molto prima e quindi i criteri poi di abbinamento vengono scelti molto prima e quindi, insomma, se è un caso è un felicissimo caso. Certo. Io ti dico che qui tutti gli inservienti, tutte le persone che lavorano, che fanno lavori di servizio, sono tutti abbigliati con i classici colori del Sudafrica e c'è una cassiera che è di dimensioni abbastanza corpose, corpulente, che è avvolta in un'enorme bandiera del Sudafrica e con molto orgoglio, credo che con legittimo orgoglio, insomma, è la loro giornata. E chissà che il 16, grazie a una possibile potenziale vittoria del Sudafrica stasera contro l'Uruguay, il 16 di giugno non diventi una data in cui si riesce, ma non certamente a oscurare o a cancellare la memoria, guai, però a lenire, no, in un certo modo la cupezza di questo giorno per la storia sudafricana che tu ci hai raccontato. Torniamo in collegamento con la redazione, con lo studio centrale di Sky Sport 24 in Sudafrica. Si diceva pochi gol, Fabio, questo sì che potrebbe cominciare a preoccupare la FIFA, perché la scelta di un pallone sempre più volatile è legata al tentativo di incrementare il numero di gol, questo vogliono, no? I fifaioli, chiamiamoli così. Sì, senza dichiararlo. Senza dichiararlo, certo, ma se la produzione invece cala e quindi cala la spettacolarità di una manifestazione universale in cui quindi è evidentemente il gol che conta più della qualità o della tecnica, a parte che finora se ne è vista poca, questo credo che non sarà oggetto di una riunione immediata, come si è detto prima e come la FIFA ha comunicato, però di qualche riflessione io penso di sì. Ma a parte che non lo dicono certo a noi se fanno riunioni, però io credo che loro stiano molto attenti a due cose fondamentali. Intanto i conti li fanno alla fine e li fanno su due parametri che però sfuggono a noi, e cioè sono uno che hanno già, e cioè quanto incassano dai vari sponsor. E ti faccio questo esempio per dirti il loro grado di attenzione. L'altro giorno a vedere Olanda-Danimarca c'erano una trentina di ragazzotte olandesi molto poco vestite e molto appariscenti e molto ben visibili, che si erano portate le insegne, i loghi di una birra danese, e sì, ne facevano palesemente la pubblicità. Stamattina, tra l'altro, ho scoperto che uno che gli ha fornito i biglietti a queste ragazze è un ex giocatore che fa il commentatore per IT. È stato giustamente immediatamente licenziato, perché quelli che si rivendono i biglietti sono veramente i peggiori. Certo. Per uno che beccano ce ne sono tanti che la fanno franca. Ma mentre invece lo sponsor, uno dei main sponsor della manifestazione è un'altra birra, che è una birra americana, e nel giro di tre minuti quelli della FIFA sono andati a oscurare questi loghi e hanno pregato gentilmente le ragazze di abbandonare lo stadio. Quindi il loro parametro è quanto incassano dai main sponsor, cioè tra gli sponsor mondiali, e quant'è l'audience complessiva nelle televisioni. A livello italiano io credo che la FIFA possa essere molto soddisfatta, perché i dati di ascolto di Rai e di Sky in questi mondiali sono tutti in ampiamente positivi, molto molto importanti, sì, certamente, ma al di là delle partite dell'Italia, vedo che i dati di ascolto delle partite che Sky propone in esclusiva sono veramente confortanti, e lo stesso dato dei 2 milioni e mezzo che hanno seguito la partita dell'Italia su Sky l'altra sera fanno segnare un incremento veramente importante, perché siamo quasi a 1 milione in più rispetto a 4 anni fa con Italia certo. Ghana. Quindi questo significa che il prodotto calcio, nonostante Giabulani e nonostante la pochezza di gol di queste prime partite, è un prodotto che tira ancora parecchio. Chiuderei con una nota climatica, Fabio, e con la richiesta di un aggiornamento su oggi, perché vedere ieri sera i giocatori del Brasile con i guanti, palesemente nel primo tempo anche intirizziti, direi, da questo -3 sensazionale, no? Addirittura per il Sudafrica. È vero che lì è inverno, è vero però che anche l'emisfero australe, insomma, non si pensava a qualcosa di diverso. Com'è oggi la situazione? Ma guarda, io ti dico che ieri sera ho scelto di non andare a Ellis Park e di non vedere la partita. È passato a salutarmi Giuseppe Cruciani ieri qui al Broadcasting Center alle 3, lui è andato, era vestito come un eschimese ed era pronto ad andare a vedere la partita. Le zanzare lo patiscono il freddo, quindi è ovvio che si devono coprire. Esatto, e lui c'è andato, io sinceramente sono rimasto lì fino alle 5, ma poi ho deciso di non andarci, perché veramente balbettavo dal freddo, e chi di Sky è andato a seguire la partita ieri, Maurizio Compagnoni, che ha raccontato la partita, e chi ha fatto le interviste a bordo campo, questa mattina ha tosse e forse certo. Temperatura anche sopra il 37. In questo momento però ti dico, io sono fuori e al sole si sta bene, cioè ho un giubbino, un maglione e una camicia, ma al sole la temperatura è buona. Appena si alza il vento però comincia a far molto molto freddo. Questo a Johannesburg, poi, speriamo il sole duri. Ieri onestamente è una giornata da dicembre lombardo, senza però per fortuna l'umidità, ecco, quello che ci salva è che il clima è molto secco e quindi si sopravvive. Lì a Johannesburg invece è stata l'umidità abbinata al freddo che probabilmente ha fregato Buffon, ma adesso ne riparliamo tra poco con Dario Ricci nella seconda parte del nostro appuntamento. Grazie a Fabio Tavelli. A voi buona giornata. Buona giornata, a domani per il nostro appuntamento consueto, per questo diario sudafricano che Fabio tiene in occasione di questo, per tutta la durata di questo mondiale. Ci sono già 2 ascoltatori collegati, ci sono alcuni commenti da sentire sulle partite di ieri. Il collegamento con Dario Ricci e con Casa Italia tarda soltanto per ragioni funzionali, per provare ad avere la prognosi esatta o comunque qualche informazione un po' più precisa sul conto non tanto di Pirlo quanto di Buffon, che stamattina si sono sottoposti a esami specifici, e quindi comincerei a sentire Giorgio che ha chiamato da Prato. Buongiorno. Buongiorno a lei, dottor Garanzini. Dica. Io seguo il mondiale prevalentemente sulla TV, di cui Tavelli è valido esponente, no? Sì. Perché ritengo una qualità molto alta. Periodicamente però mi è capitato di fare zapping, siamo sulla TV di Stato. Casualmente io tutte le volte ho fatto zapping, mi sono imbattuto in filippiche contro le vuvuzelas, no? Soprattutto da parte di chi staziona dalle parti di Saxa Rubra Editor. Io ammetto che le vuvuzelas possano essere noiosissime, no? Però io da parte degli stessi commentatori che si scagliavano contro le vuvuzelas, tu non li ho mai sentiti nelle nostre domeniche scagliati contro i coltelli dell'Olimpico, no? Anzi, evitano con cura l'argomento. Cioè, mi viene quasi da pensare, secondo costoro il kit del tifoso prevede i coltelli e non le vuvuzelas, secondo lei? Beh, insomma, messa così è un po' greve, anche se è detta in tono lieve e ironico, concettualmente è un po' greve. Insomma, io ho letto stamane la rubrica di critica televisiva di Aldo Grasso sul Corriere della Sera a proposito di Rai e di Mondiali, e credo che sia abbastanza esaustiva da un punto di vista critico. Non mi ci avventuro perché non sono documentato e quindi non sarei attendibile, ma certo per quei rarissimi minuti in cui fino ad ora è capitato, diciamo pure che il livello potrebbe essere diverso anche da un punto di vista tecnico, ma soprattutto da un punto di vista strettamente ambientale. Sentirei il commento di Cacà. Cacà ieri sera ha confermato che questo suo momento, se non nero, grigio, non accenna a passare. C'è pochissimo di suo nella vittoria che il Brasile ha ottenuto a fatica, tra l'altro, contro una meritoria Corea del Nord. C'è pochino, dicevo. Sentiamo alla fine come l'ha commentata. Bene partire con una vittoria, credo che questo è un fattore molto positivo di questa prima partita. Poi dobbiamo migliorare, certo, tante altre cose, però la prima partita è sempre un po' più delicata per l'ansia, per tante altre cose, però il risultato, la vittoria, i tre punti sono positivi. Sono contento della mia prima partita perché non sapevo in che condizione potevo arrivare a questo mondiale dopo l'infortunio, però sono arrivato bene, sono riuscito a giocare 70 minuti oggi bene, sono contento della mia prima partita. È difficile trovare una squadra che si chiudi veloce, si chiudi bene, però alla fine loro non sono riusciti a chiudere tutti i 90 minuti. Nel secondo tempo gli spazi, abbiamo creato più spazi, abbiamo fatto due gol e create altre possibilità di gol. E questo era il commento di Kakà a questo 2-1 di Brasile-Corea. Davide ha chiamato da Milano, buongiorno. Buongiorno. Dica. Io invece sono nel partito che pensa che il gol di Maicon sia un po' fortunoso. Lo so che vado contro la sua idea, però ecco, mi è sembrato che lui prima dà un occhio al centro dell'area, vede Fabiano, e poi tira e il primo sguardo lo dà dove pensa che esca poi la palla, ed è verso Luis Fabiano. E dopo segue il tiro che segue. No, Davide, questo è il calcio alla moviola in cui siamo specializzati noi, cioè il calcio della scomposizione della realtà. Il calcio è quello che si gioca a velocità reale. A velocità reale la palla che gli mette Elano è magnifica, ma considerando che questa palla corre più delle altre, questa palla tende a scappargli verso la linea di fondo. Lui riesce a raggiungerla e nel momento in cui la sta raggiungendo, con la coda dell'occhio capisce che il portiere ha già fatto mezzo passo fuori, però da come la racconta lei sembra un romanzo a puntate, e invece sono frazioni di centesimi di secondo che sono quelli che distinguono il fuoriclasse dal giocatore normale, secondo me, almeno io l'ho vista così. Anche perché sennò non si spiegherebbe perché Maicon da lì colpisce la palla di mezzo esterno, no? Se avesse voluto crossare per Luis Fabiano o mettere una palla banale in mezzo, evidentemente usava l'interno del piede, un giocatore della categoria di questo brasiliano. Invece capisce capisce perché ha visto già questo mezzo movimento, secondo me legittimo, del portiere. E a quel punto invece la prende in quell'altra maniera, caricandolo di molta forza. Secondo me è un capolavoro storico. Poi naturalmente ciascuno rimane della propria opinione, e ci mancherebbe altro che non si potessero avere opinioni differenti su un gol. Devo dire che quello di ieri sera mi sembrava abbastanza di facile lettura, perché a farlo è uno che ci ha abituato già ad alte prodezze, e ripeto, gli era riuscito un colpo del genere anche meno di 2 anni fa in una partita di nazionale contro il Portogallo, anche se non così impossibile. Certo, se lo fa un difensore normale, un giocatore di categoria, allora è un po' più legittimo domandarsi se questo sia stato fatto volutamente o per caso. Ora di conferenza stampa azzurra in Sudafrica, sentiamo in sintesi che cosa ha detto Pepe. È così, perché il mister quando ti dice una cosa riesce a fartela entrare bene nella testa e a volte anche nel cuore, perché comunque ti dice cose importanti che ti toccano, e questo penso sia importantissimo, avere, come dici te, un condottiero come il mister e poi tanti giocatori a disposizione che sono pronti a da tutto. Nessuno può dire cambiamo, se non il mister può dire cambiamo. Se decide il mister è bene, altrimenti tutti fanno quello che dice il mister, perché è giusto che sia così, altrimenti non ci sarebbe un allenatore ognuno farebbe quello che vuole, per cui nessun tipo di problema. E poi quello che ci siamo detti tra di noi è bello anche che rimane tra di noi. È sempre bello carico come tutto il gruppo, e l'ha dimostrato l'altra sera, sia il gruppo sia la panchina. Non so se ci avete fatto caso l'altra sera, io ho visto giocatori in panchina che un altro po' mi trovo vicino in mezzo al campo per urlare o per aiutare un compagno, perché il gruppo è nato da sé. È nato da sé e adesso si sta sempre più forte. Pepe, ci trasferiamo in Sudafrica per un collegamento con il nostro inviato Dario Ricci. Buongiorno Dario. Buongiorno Gigi dal Ritiro Azzurro di Centurion. Proprio lì è l'epicentro oggi della proiezione azzurra, perché si aspettano notizie dettagliate su Buffon. È inutile che ci nascondiamo che per il prosieguo del cammino, con tutto rispetto per Marchetti, un conto avere in porta Marchetti e un conto avere in porta Buffon. Eh sì, è proprio così, anche se poi in sede di conferenze stampa, come in qualche modo sentivamo precedentemente dalle parole di Pepe, anche ribadito Chiellini, si sottolinea molto la centralità del gruppo, ma è chiaro che Buffon è un fuoriclasse assoluto. Gli ultimi aggiornamenti proprio in merito alla situazione dei grandi assenti, Buffon e Pirlo. Questa mattina entrambi si sono recati, accompagnati dallo staff medico azzurro, presso l'ospedale di Pretoria, dove hanno svolto degli ulteriori accertamenti, in particolare risonanza magnetica per Buffon. Nel pomeriggio il professor Castellacci, che suo malgrado è di fatto diventato il protagonista della spedizione in queste ore, farà il punto della situazione. Chiaramente tanto è l'ottimismo rispetto al recupero di Pirlo, che come aveva comunicato lo stesso professor Castellacci nei giorni scorsi, è stato sottoposto ad una terapia particolarmente aggressiva per recuperare l'infortunio al polpaccio, quanto invece è il pessimismo sul recupero del numero uno azzurro, proprio perché per l'esperienza anche vissuta in questa stagione abbiamo visto quanto sia stata tribolata per Buffon uscire da questi problemi alla schiena poi non risolti. Da sottolineare, Gigi, che anche per il freddo intenso di questi giorni qua nella zona di Johannesburg, Centurion, Pretoria, ieri eravamo sotto zero nella partita del Brasile e oggi c'è un bel sole a riscaldarci, ma la sera non promette niente di buono. L'orario dell'allenamento azzurro è stato posticipato di mezz'ora, dalle 10:30 alle 11, proprio per potersi allenare in una situazione climatica leggermente migliore ed evitare ulteriori problemi di cui non si sente proprio il bisogno. Lo credo, infatti sono i conti che bisogna fare col generale inverno che in questo momento nell'emisfero australe c'è e che si pensava semplicemente fosse più clemente, anche perché è un freddo davvero anomalo per quelle zone. C'è un'ultima cosa che è rimbalzata in Italia e che mi pare dia la misura, aspettando ovviamente l'esito di questa analisi di stamane, di questo controllo di stamane e la prognosi un po' più precisa del professor Castellacci, però dà la misura del pessimismo che c'è sul conto di Buffon, e cioè il fatto che si è parlato di una deroga, di una richiesta di deroga alla FIFA per poter convocare un terzo portiere, che in questo caso sarebbe Sirigu. Sì, è un'ipotesi che è in campo e che, come sottolinei tu, dà un po' la misura di quanto siano proprio ridotte al lumicino le speranze di recuperare Buffon, giocatore fondamentale del resto, non solo per le capacità tecniche che tutti conosciamo, ma anche, e queste pure conosciamo bene, per le sue capacità di leadership nel gruppo. Non a caso, proprio da questo punto di vista, direi che anche il Lippi che si è visto oggi in campo è un Lippi che, se possibile, ha ancor più preso il timone della squadra, l'abbiamo visto dirigere l'allenamento con grande attenzione, grande meticolosità, grande ritmo, esercizi molto brevi, 5-10 minuti al massimo, grande lavoro sulla tecnica, sul palleggio, partitella molto ritmata, come a voler tenere sempre sulla corda il gruppo, che potrebbe trovare anche nell'assenza di grandi leader possibili alibi psicologici. Ecco, Lippi a questo rischio non vuole andare incontro. Dal punto di vista tattico, Gigi, invece, da sottolineare che nell'allenamento di oggi, che è anche l'unico previsto per la giornata, Lippi ha insistito sul 4-4-2, proponendo in alcune fasi di gioco la coppia Di Natale Gilardino in attacco. Questo è importante da sottolineare in proiezione in Nuova Zelanda, perché è lo schema che ha funzionato meglio contro il Paraguay nella ripresa, e sarà quella con i neozelandesi una partita oltre che da vincere con tutti i costi, anche probabilmente segnando più di un gol, perché a questo punto anche la differenza reti può tornare sicuramente utile. Un'ultima nota qui da Centurion: Gigi, i neozelandesi già ci stanno spiando, oggi tanti colleghi da Auckland e dintorni sono venuti qua al ritiro, e quindi insomma anche la lotta delle spie giornalistiche è iniziata. Molto bene, grazie a Dario Ricci. Chiudiamo questo collegamento con il Sudafrica. Ci sono molti ascoltatori che premono per intervenire, ci sono anche molti messaggi. Farei una campionatura tra alcuni che riguardano il gol brasiliano. Allora, Maicon ha fatto una prodezza, scrive Alessandro da Vittorio Veneto, ma sul primo palo Gigi Buffon non lo prende un gol così. Sono d'accordo, a patto però che si pensi che il portiere coreano e forse anche Buffon avrebbe potuto avere la tentazione di uscire, perché da quella posizione uno normale non può tirare in porta, e quindi quella spinta sul piede destro che il portiere coreano ha all'infuori, no? Proprio già per provare a anticipare l'unica possibilità umana no? che a quel punto c'è, e quindi di andare a intercettare un cross, ma con quella forza, scrive un altro ascoltatore, come faceva a essere un cross? Poi, se in porta c'era un portiere vero, Maicon se ne sognava il gol. Buongiorno, sono Nico da Biella. Non avrebbe mai colpito la palla così Maicon se avesse voluto crossare. E qui cominciamo a esserci, fino a Paolo da Prato, che perlomeno per i miei gusti è quello che fa la sintesi finale, che dice: chi dice che il gol di Maicon è casuale non ha mai dato un calcio a un pallone. Firmato Paolo da Prato. Francesco in linea da Brescia, buongiorno. Buongiorno dottor Garanzini, volevo chiederle se lei dovesse essere un presidente che deve rafforzare la squadra appena promossa in Serie A, io sono di Brescia, quindi pensare Corleone sì. Dice che deve rafforzare, avrebbe già individuato magari qualcuno di questo mondiale, un giocatore magari poco conosciuto? Avrei già individuato, lei parla di Brescia, vero? No, ma dico, guardando il mondiale, tipo quello della Corea ieri, Yong Tae, sì, facciamo così, Francesco, visto che mi ha acceso una lampadina mentre lei parlava, visto che lei chiama da Brescia, io l'avrei già individuato il rinforzo per il Brescia un altro anno, si chiama Mario Balotelli. Io farei carte false, se fossi in Corioni, farei carte false per convincere l'Inter a fare un anno, a proporre a Balotelli un anno di maturazione piena e totale, e ovviamente però dovrei fare carte false per convincere Balotelli a scendere da una Champions League che comunque ha già vinto ad una squadra che lotterà per salvarsi. Io credo che sarebbe una scuola formidabile questa per Balotelli, credo che gli sarebbe utilissima. Credo, se vogliamo andare avanti sulle suggestioni, che dall'anno prossimo ci sarà anche un CT bresciano che magari potrebbe essere sensibile a questo argomento. Lo dico perché per due ragioni. La prima è che insomma, c'è una suggestione enorme in questa, anche territoriale. La seconda è che Corioni in passato, il presidente del Brescia, ci ha abituato a qualche colpetto di fantasia, no? Perché non fu proprio un'idea banale quella di portare Roberto Baggio a Brescia e di costruire su di lui un futuro. Con Balotelli questo non è possibile, perché il futuro di Balotelli è ad altri livelli. Però io credo che sia un ragionamento che il Brescia potrebbe fare, e non mi meraviglierei affatto se il presidente Corioni qualche mossa in questa direzione l'avesse già anche fatta. Gianfranco Padova, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Per la trasmissione, sì. Mi ripeto quanto lei già ha ben detto sul gol, sullo straordinario gol di ieri sera. Io ho fatto l'arbitro per una ventina d'anni a livello dilettantistico, ma un gol così, mi creda, io non l'ho mai visto. Anzi, le dirò di più, questa notte non ho mai dormito, perché pensavo come ha fatto a calcolare i tempi, la velocità, la posizione del pallone, perché bastava un centimetro sotto, un centimetro sopra, un centimetro da lato, cioè sicuramente il pallone avrebbe preso un'altra traiettoria. Lì veramente un gol, secondo me, da fare una tesi di laurea. Tutto qua. Gianfranco, io la penso esattamente come lei. Stanotte ho dormito, ma ieri sera sono saltato davanti al televisore facendo un balzo ad altri tempi. E contemporaneamente al suo intervento scrive un ascoltatore da Albano, in provincia di Trieste: come si può denigrare un gesto tecnico come quello di Maicon? Davanti a un'opera d'arte non si può che restare incantati, scrive Albano, e io sono perfettamente d'accordo con lei e con lui. È arrivata dal ritiro azzurro anche la voce di Chiellini. Contare conta, per una squadra conta, perché alla fine il portiere è sempre quello che ci mette la pezza, che ti dà una mano in più. Conta come il centravanti che fa gol. Secondo me alla fine l'asse centrale di una squadra è sempre molto importante. Il portiere e l'attaccante sono alla fine due ruoli sempre molto decisivi. Oh, nel frattempo, questa è un'altra intervista fresca di pochissimo fa. Nel frattempo il Cile è sempre in vantaggio sull'Honduras per 1-0, quando ormai siamo vicini all'ora di gioco e quando sta per cominciare, credo, sull'altro campo, quasi almeno, la fase di riscaldamento per Spagna e Svizzera per la partita delle 16. Bello anche questo messaggio firmato Lori da Milano, che fa un excursus storico molto sintetico, visto che si tratta di un SMS, ma verissimo. Maicon, con gol di ieri sera, scrive Lori, tiene alta la fama dei terzini destri brasiliani abituati a grandi prodezze del genere. Carlos Alberto, è vero, Leandro, Neligno, Jorginho, Josimar addirittura, si ricorda Lori. E questo mi sembra, potremmo tornare anche a Dialma Santos, che però segnava meno e forse non aveva in repertorio un colpo del genere, forse anche per i palloni di allora, ma insomma qui il discorso andrebbe lontano. Visto che questo ascoltatore ci ha portato sulla Marcord, allora è il momento di Nicola Filippone, la cui versione però oggi è leggermente anomala, perché dopo la sigla non sentirete la sua voce, ma sentirete quella di un filmato d'epoca opportunamente ricavato in base alla data da lui scelta. Sembra ieri. Nello stesso stadio di Marsiglia, dove già gli azzurri ebbero a disputare in questo campionato del mondo la prima vittoriosa partita di qualificazione, la nostra squadra viene opposta in semifinale all'11 brasiliano. È forse la partita più ricca di incognite di tutto il torneo, questa che mette di fronte le compagini meglio agguerrite d'Europa e del Sud America. Il gioco dei brasiliani è fondato in prevalenza sulla bravura individuale. Quello degli azzurri sulla tecnica d'insieme, sull'intesa perfetta tra le varie linee. È dunque il glorioso prestigio del calcio europeo, le tradizioni del bel gioco che l'Italia è chiamata a difendere. L'impeto combattivo dei nostri, la loro decisa volontà di vittoria, varranno ad affermare un primato fra due continenti. Beh, mi è sembrato un frammento storico molto interessante da proporre, perché siamo nel 1938, cioè eravamo nel 1938 con quel filmato, oggi siamo nel 2010, il linguaggio è cambiato assai più che profondamente, ma la retorica, se c'è di mezzo una partita dell'Italia, è rimasta assolutamente la stessa. Anzi, ho l'impressione che oggi in qualche caso ce ne siano delle spruzzate anche più, come dire, più significative. In ogni caso, quella storica semifinale fu vinta dall'Italia 2-1 sul Brasile. Il Brasile commise l'errore, mi ricorda Nicola Filippone nei suoi appunti, l'errore di supponenza di lasciare a riposo il loro miglior giocatore, che era Leonidas, che era il capocannoniere, e anche Tim, un altro giocatore di grande talento. E Morale, insomma, segnò per primo con la Ussi, poi raddoppiò su rigore Meazza, un fallo su Piola e la famosa gag di Meazza, che insomma, mentre prende la rincorsa, sente l'elastico del calzoncino che si rompe e va a calciare il rigore tenendosi le braghe con le mani per non restare in mutande. E poi all'ultimo, al penultimo minuto, il gol del 2-1 del Brasile, inutile, e quindi l'Italia che andrà a giocarsi la finale a Parigi contro l'Ungheria per poi vincerla 4-2. Sempre il 16 giugno, perché questo è il giorno di oggi, mi segnala ancora Nicola che ci fu nell'82 una delle più grandi sorprese della storia, cioè l'Algeria che sconfisse la Germania Ovest per 2-1 con un gol tra l'altro di Magher, E poi invece nel 2006, 16 giugno 2006 a Gelsenkirchen, il primo gol in un mondiale per Leo Messi, in un 6-0 dell'Argentina contro la Serbia. E il primo gol di Leo Messi, insomma, credo che sia, e mi auguro che sia, il primo di una serie che sta per ricominciare e continuare. Fulvio, provincia di Torino, buongiorno. Buongiorno a lei, signor Garanzini. Il gol di Maicon ieri sera, mi sono goduto il gesto atletico, dormirò benissimo fino a quando non ce li troveremo di fronte, semmai. Certo. Al di là di questo, mi dà l'impressione che questi nuovi palloni, questi palloni fantasmagorici che hanno questi effetti un po' strampalati, mi portino a pensare che la FIFA abbia in mente quelle partite che finivano 40-38 per il proprietario del pallone. A me il calcio piace così com'è, insomma, non avrei cambiato granché, soprattutto non il pallone. Sì. Inutile mettere in difficoltà l'attaccante piuttosto che il portiere, serve a poco, se la tecnica c'è, quella rimane. Certo, sono d'accordo con lei, infatti. Il portiere, insomma, storicamente, il portiere è abituato, no, a essere messo in difficoltà. Il portiere ormai è una vittima della FIFA, lo è dal 1990, da quando ci fu la svolta regolamentare innanzitutto, e cioè il discorso dell'intervento dell'ultimo uomo, il fatto del rigore, il fatto del divieto di retropassaggio, eccetera, eccetera. Il mestiere, beh, che gol che si è mangiato il Cile a un metro dalla porta. Erano in tre contro il povero portiere, sponde di uno per un colpo di testa dell'altro, e questo gliel'ha schiacciata in mano al portiere, che è stato bravo, per carità, ma insomma, da 2 metri dalla porta, colpendo oltretutto di testa in piena sicurezza, la porta è un condominio, non è una porta, quindi mi risulta un po' difficile che si possa inzuccare, insomma, che si possa prendere il portiere. Dicevo di queste queste difficoltà del portiere, di questi trattamenti abbastanza severi, e adesso però questo genere di pallone penalizza non soltanto loro, ma anche i giocatori di campo, come lei ha ben detto. Non ci stanno più due ascoltatori, temo, che sono già entrambi collegati. Chiedo scusa a Ernesto da Bergamo, che sarà il primo a essere richiamato domani. Giuseppe ha chiamato da Campobasso, buongiorno. Sì, buongiorno Gigi. Dica. Io vorrei intervenire sull'argomento portieri, visto che ne stanno parlando anche in modo abbondante. Per quanto riguarda questo ruolo, che ottimamente coperto da Buffon fino ad oggi, noi abbiamo due bravi portieri, tutti e due, Marchetti e De Santis, ma considerando che il Mondiale non è un torneo estivo, credo che sia una cosa piuttosto importante, e considerando che Marchetti ha un futuro assicurato soprattutto sulla nazionale, e insomma, io sono ex portiere, no, ovviamente non professionista, ma insomma ritengo che in questa fase probabilmente De Santis sarebbe stato più opportuno, considerando la sua grande personalità, ne ha veramente da vendere, e soprattutto considerando un altro aspetto, che considerando che è abruzzese, no? Sì, no? Siamo cugini, va bene, ma ecco. Ecco, ci siamo arrivati, Giuseppe. Ci siamo detto, arrivati. Però De Santis è anche un para rigori, e io, sì, se non ricordo male, è anche un para rigori, nel senso che mi pare che mobiliti i parenti, no, non li ha mobilitati lui, ma insomma, mi pare che il parentato si automobiliti. Sì, lui è anche un para rigori, però non esce mai. Detto tra lei e me, Giuseppe, non esce nemmeno. Una volta li chiamavamo i portieri con la catena corta, ma ci sarà tempo per parlarne, e soprattutto speriamo non ci sentano né in Nuova Zelanda e nemmeno negli altri paraggi. Tanto io penso che giocherà Marchetti. Grazie a tutti per i vostri interventi, grazie a Filippo Aureggi in regia, Franco Piantanini in redazione, ci sentiamo domani. A tempo di sport.